Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Il tema della sostenibilità è sempre più al centro delle politiche dei trasporti. Dall'utilizzo di carburanti alternativi alle infrastrutture intelligenti allo sviluppo di modalità meno inquinanti, le azioni per garantire un sistema di trasporti a misura d'ambiente sono sempre più estese. Tuttavia c'è un fenomeno legato all'evoluzione tecnologica che va monitorato e che rischia di avere delle ricadute sulla sostenibilità dei trasporti: il commercio elettronico. Dai capi di abbigliamento ai prodotti tecnologici, ogni giorno arrivano nelle nostre case pacchi che hanno compiuto viaggi più o meno lunghi e che sono stati selezionati con un solo colpo di clic. Il commercio digitale è la modalità con cui quasi 18 milioni di utenti italiani riducono le distanze fra loro e i produttori. Oltre al risparmio di tempo, ai prezzi scontati e alla vastità di assortimento, infatti, è l'immediatezza uno dei fattori che stimola particolarmente gli utenti. Ma se è vero che senza passare per rivenditori, magazzini e stoccaggi di vario tipo, la filiera si accorcia, è vero anche che si moltiplicano le consegne nelle nostre città. Qual è allora l'impatto del commercio elettronico sull'ambiente? Minaccia o opportunità? Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E in queste settimane ci siamo occupati spesso del tema della sostenibilità ambientale, un tema centrale per il futuro del nostro intero sistema economico. Ma mentre da un lato si stanno facendo sforzi enormi per abbattere le emissioni inquinanti nel mondo dei trasporti, dall'altro, come avete ascoltato anche dalla nostra scheda iniziale, ci sono fenomeni importanti, come ad esempio quello legato all'e-commerce, al commercio elettronico, che rischiano in qualche modo di compromettere questi sforzi. Cercheremo di capire oggi qual è la situazione in compagnia dei nostri ospiti. Vi presento il primo, Federico Ferrazza, collega giornalista, ma soprattutto direttore di Wired, una delle testate giornalistiche da sempre concentrate e attente al tema dell'innovazione tecnologica. Buon pomeriggio, Ferrazza. E vi presento anche il secondo nostro ospite, Riccardo Mangiaracina, direttore dell'osservatorio e-commerce B2C del Politecnico di Milano. Buon pomeriggio anche a lei. Buon pomeriggio a voi. Cominciamo da lei, Mangiaracina. Inquadriamo un attimo il fenomeno dell'e-commerce in Italia. Quanto si sta sviluppando e quanto si è sviluppato in questi ultimi mesi? L'e-commerce in Italia è un fenomeno che continua a svilupparsi, direi, in maniera incessante dalla sua nascita fino ad oggi. Non c'è stato un anno in cui il fenomeno non sia cresciuto. Oggi in Italia sfiora i 20 miliardi di euro e, per dare una dimensione, diciamo così, più significativa a questo valore, posso dire che 20 miliardi di euro rappresentano circa il 5% del valore degli acquisti degli italiani. Federico, con il tuo giornale ti occupi da tempo, da anni, di innovazioni tecnologiche, di sostenibilità e di futuro sostenibile in qualche modo. Qual è la percezione che la rete ha in questo momento sul tema della sostenibilità ambientale, che, come dicevamo, è un tema assolutamente centrale per il nostro futuro? Io credo che fondamentalmente la rete ha aiutato in gran parte l'aumento di una sensibilità verso questi temi qui, perché insomma poi la rete che cos'è? È un grandissimo archivio di informazione, no? E quindi andare a cercare questo tipo di informazioni o essere facilmente raggiunti da queste informazioni che parlano di sostenibilità oggi è molto più semplice. Quindi credo che l'aumento della sensibilità rispetto a questi temi, rispetto anche a solamente 10-15 anni fa, sia imputabile anche alla rete. Ad una diffusione dell'informazione così capillare come quella garantita dalla rete. E i social network in questo campo quindi la fanno da padrone e potrebbero aiutare ancora di più a diffondere queste tematiche, questa consapevolezza. Ma io credo di sì, insomma mi sembra che rispetto agli anni 80, agli anni 90, tutti gli attori in campo, dal singolo cittadino fino alla grande corporation, sono molto più attenti ai temi dell'ambiente, e questa maggiore attenzione poi magari si trasforma anche in contenuti. Pensate a tutte le cose che fanno le aziende sulla sostenibilità ambientale e che poi comunicano attraverso la rete. Ecco, questi modelli qui secondo me poi arrivano al singolo cittadino che in gran parte adotta. Ecco, ma secondo te non c'è più il rischio che questa possa diventare una sorta di moda piuttosto che una tendenza affermata ed una consapevolezza reale? innanzitutto mi prenderei anche la moda. Certo, anche va bene anche questo, va bene, certo. Va bene anche quello, no? Sono una persona abbastanza pragmatica, quindi mi prenderei anche la moda. Ma detto questo, non credo onestamente che sia una moda. Oggi credo che rispetto a tanti comportamenti c'è una maggiore attenzione, che non è solamente attenzione all'ambiente, ma in generale attenzione alla salute delle persone. Pensiamo a quello che succede con il fumo, pensiamo all'attenzione che si ha per esempio sul cibo, che non è solamente mangiare cibo più buono, ma è anche mangiare cibo più sano. Credo che tutti questi tipi di comportamenti più virtuosi, e che non a caso ci allungano anche la vita media, non siano una moda, anche perché faticherei a riscontrare nel corso della storia mode che ormai durano da parecchi anni. Mangiaracina, torniamo un attimo al tema con cui abbiamo aperto questa trasmissione, che è un tema legato in qualche modo alla distribuzione e alla logistica. Se è vero che praticamente grazie all'e-commerce ormai tutti noi possiamo fare acquisti comodamente in casa, c'è anche il rovescio della medaglia, e cioè la distribuzione che diventa sempre più capillare e che in qualche modo va ad intasare sempre di più dei centri urbani che sono già di per sé congestionati. Sì, devo dire che la logistica nell'e-commerce è decisamente più complicata della logistica in un processo di rifornimento di un negozio, diciamo così, tradizionale, per diverse ragioni. La prima e più lampante è che nell'e-commerce movimento il singolo pezzo, quindi questo è vero sia nella fase di prelievo nel magazzino, dove prelevo il singolo pezzo e poi movimento il singolo pezzo invece che movimentare grandi quantità di merce, e quindi in maniera più efficiente, e lo stesso singolo pezzo poi devo consegnarlo a casa del cliente, certo, quindi attraverso il giro di consegna di un corriere espresso. Questo certamente aggiunge oneri alla logistica, quindi facendola diventare più costosa, e da un certo punto di vista dovessi fermarmi qui solo a valutare le attività logistiche in senso stretto, con un impatto ambientale peggiore rispetto a quella del negozio tradizionale. Però credo che per fare un confronto, diciamo così, tra un percorso di acquisto tradizionale e un percorso di acquisto online rispetto all'impatto ambientale generato da ciascuno di questi, bisogna prendere in considerazione anche altri fattori. Quali sono questi fattori? Proviamo a confrontare i due processi, no? Da una parte abbiamo il percorso offline, quindi il cliente che deve andare in negozio ad acquistare il prodotto, quindi in prima battuta c'è il trasporto verso il negozio e poi dal negozio a casa, attività che quando acquisto online non faccio, e poi c'è tutta la fase di interazione con il venditore all'interno del negozio, interazione che se compro un capo di abbigliamento prevede anche la prova del capo o di più capi all'interno del negozio. Quindi banalmente ho un esercizio, un negozio che nel caso dell'online non ho, e quell'esercizio, quel negozio deve essere riscaldato e mantenuto, e quindi questo di per sé è sufficiente a generare un impatto ambientale. Devo andare in quel negozio e quindi recarmi lì con la mia auto, e certo, questo ha un impatto ambientale. Sono cose che non ci sono nell'e-commerce. Nell'e-commerce, dall'altro lato, sono vere quelle cose che abbiamo detto prima, quindi è vera la movimentazione del singolo pezzo che genera un impatto ambientale superiore, è vero che quel pezzo deve essere anche confezionato con un packaging apposito e questo genera un impatto, ed è vero che devo portarlo a casa attraverso un giro di consegna con un corriere. Quindi, come dire, la questione è più complessa di quello che può sembrare a prima vista, per cui non esiste nemmeno un risultato univoco, cioè non è vero che l'e-commerce e l'acquisto online ha sempre un impatto ambientale inferiore rispetto all'offline, perché dipende da tutta una serie di fattori. Quindi, in pratica, se sommiamo tutte le condizioni alla base delle due attività, l'acquisto tradizionale e quello online, probabilmente scopriremo che non c'è un vantaggio ambientale nell'e-commerce, ma neanche uno svantaggio così marcato. Bene, termina qui anche questa puntata di Container. Prima di lasciarci, vi ricordo che questa è una produzione realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori. E vi ricordo anche il nostro indirizzo email, che è container@radio24.it. La nostra trasmissione ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato.